Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e nove minuti, ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: la quotazione della SEA saltata a sorpresa, devo dire. C'era uno scontro molto forte con l'altro azionista di minoranza, lo raccontavamo anche prima nel corso del GR, mi riferisco a F2I, il fondo che della SEA ha una quota rilevante, nel senso che la maggioranza della società che gestisce l'aeroporto di Milano, quindi Linate e Malpensa, è il comune di Milano col 54%, che non andava a diluire, non sarebbe andato a diluire, quindi a ridurre la sua quota attualmente del 54%, perché non avrebbe dato all'offerta pubblica, non avrebbe consegnato nessuna azione. Chi invece consegnava le azioni? Era la provincia di Milano, che voleva vendere tutta la sua quota, e invece F2I era contraria a questo collocamento a prezzi troppo bassi, perché adesso insomma, lo racconteremo dopo lo scontro. Il problema vero è che in questo momento attendiamo una conferenza stampa che dovrebbe iniziare intorno alle 17:40-17:45. Ma soprattutto il sindaco di Milano ha detto che in caso di insuccesso si assumono le responsabilità tutti coloro i quali hanno fatto ricorsi infondati, senza citare peraltro esplicitamente l'azionista F2I. Podestà, ossia la provincia di Milano, ha detto che la Corte dei Conti farà ovviamente le proprie indagini, però il ricorso riguarda più il comune che la provincia. Così appunto Podestà sull'apertura di un fascicolo della Corte dei Conti per danno erariale nei confronti della vendita da parte del Comune di Milano di SEA e Serravalle, quella approvata lo scorso settembre dal Consiglio Comunale. Di questo parleremo, si ingarbuglia quindi la vicenda. Ripeto, da questo collocamento si puntava a raccogliere tra gli 800 e il miliardo di euro. Anche il valore minimo offerto, 3,2 euro, era comunque superiore alla media europea del settore. A favore della SEA e di un suo collocamento in borsa vi era il fatto che con l'Expo di Milano i passeggeri potrebbero, attualmente 28 milioni di passeggeri tra Linate e Malpensa, sarebbero dovuti dovrebbero aumentare a 32 milioni, appunto, come effetto dell'Expo. Ne parliamo più avanti. Altro tema che riguarda questa giornata: i dati sulla disoccupazione. Ahimè, la conferma che c'è un nuovo record ad ottobre, sono quasi 3 milioni, 2 milioni e 900 mila i senza lavoro in questo paese. Per i giovani il tasso sale al 36,5%, in totale la soglia supera l'11% ed è il dato più brutto, e quindi più alto, sia dall'inizio delle serie trimestrali del 1992, sia dal gennaio 2004. Mi riferisco alla disoccupazione, in particolar modo alla disoccupazione giovanile. Nel solo mese di ottobre vi sono stati 100.000 disoccupati in più, con un record di lavoratori precari, 2.900.000. Adesso ne parliamo proprio in apertura. Poi la vicenda dell'Ilva, perché il governo, appunto, al di là del fronte tarantino, oggi il fronte più che altro romano, il Consiglio dei Ministri sta ancora analizzando, a meno che non siano uscite agenzie in questi istanti, ma non le vedo, la bozza di decreto legge sull'IVA di Taranto, che secondo fonti governative continua a subire cambiamenti. In linea di massima, secondo quello che si capisce di questo decreto, dovrebbe riassegnare alla gestione dell'azienda, quindi che fa parte del gruppo Riva, gli impianti sequestrati dalla Procura di Taranto. La condizione proposta è che l'IVA applichi interamente tutte le disposizioni dettate dall'autorizzazione integrata ambientale, dall'AIA. E poi sta anche cercando di capire come garantire la certezza dei fondi necessari per il risanamento. Non bastano i 300-400 milioni messi a disposizione dall'IVA. Le stime parlano di 2, 3, forse 4 miliardi per l'Ilva di Taranto. Anche di questo parleremo, e poi nella seconda ora del programma sarà nostro ospite il direttore generale del gruppo Unicredit. Oggi hanno presentato un rapporto annuale sulle piccole e medie imprese. Sarà l'occasione anche per chiedere a Nicastro che cosa stiano facendo per le piccole imprese, le banche italiane per le piccole e medie imprese, e in particolar modo per aiutarle a esportare e a essere presenti in quei mercati. Spesso riceviamo infatti lamentele, critiche da parte dei piccoli e medi anche imprenditori sull'assenza delle nostre banche, a parte qualche ufficio di rappresentanza, nelle aree che tirano veramente, ormai si chiamano MIT, Messico, Indonesia, Turchia e anche Sudafrica. Non ci sono solo i BRIC, non c'è solo il Brasile, l'India e la Russia, e la Cina chiaramente. In quelle aree, non in tutte, nella parte dell'est Europa e della Russia siamo più presenti, però il grosso della crescita arriva da Turchia, Brasile, Indonesia, ripeto, Cina e India, e lì molte sono le lamentele che riceviamo. Le gireremo, per quello che gli compete, appunto al direttore generale dell'ENI di Unicredit, Roberto Nicastro. 349-238-6666 per i vostri sms. Dicevo ENI perché sto guardando anche la borsa in cui sostanzialmente oggi gli energetici sono deboli. A2A perde lo 0,60%, Enel l'1%, Enel Green Power l'1,42%. L'unica eccezione, ecco perché ho fatto questo rifuso, è Eni, che è invariata. È arrivato in questo momento il flash agenzia che il Consiglio dei Ministri ha dato via libera al decreto legge, e allora ci collegheremo fra pochissimo con la nostra Alessandra Schepisi, che sta seguendo che ha seguito il Consiglio dei Ministri. Fiat nel frattempo, tornando alla borsa, più 2,90, Banca Popolare dell'Emilia Romagna più 2,5, Steamark Electronics più 2,1, Saipem più 1,40, Ansaldo più 1,20, Exor più 1, Pirelli più 0,80. Complessivamente la borsa perde lo 0,1%, negativa la Pop Milano di 2,5 punti, Buzzi Unicem di 1,5 punti come Mediaset, e l'1% lo perde Mediolanum, ma anche Finmeccanica e Telecom Italia. Ed Enel, euro forte relativamente, a quota 1,30 e 13, Parigi più 0,14, Francoforte più 0,32, Londra più 0,30. Le altre notizie in breve. Molti di voi ci stanno scrivendo ancora sulla vicenda di Isabella Viola, la mamma di 4 bambini morta per un malore che non si era voluta curare, la lavoratrice che si svegliava tutte le mattine alle 4. Abbiamo detto, uno di quei volti che chi frequenta i mezzi pubblici la mattina ben vede, che lavorava anche la domenica, e della colletta spontanea che è nata nel Tuscolano, dove lei aveva un bar a Roma, vicino all'edicola, fatta da gente comune, pensionati, studenti, abitanti, frequentatori del bar. Non abbiamo mai ricevuto un'indicazione su come poter aiutare i figli della signora Isabella, gli orfani di Isabella Viola. Lo dico perché continuate a scriverci, ma nessuno ci ha scritto se esiste un IBAN, un codice, un conto corrente. Dovessimo riceverlo, ve lo daremmo sicuramente. Andiamo avanti con la parte internazionale, come sempre. Qui, insomma, la Germania. Perseverare è diabolico, quindi meglio così. Perché lo dico? Perché il Bundestag tedesco, il Parlamento tedesco, ha approvato il terzo pacchetto di aiuti per la Grecia ad ampia maggioranza. Anche l'SPD e i Verdi hanno votato a favore. Ma la cosa più interessante sono le dichiarazioni del Falco, ossia il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble. Ora, io potrei riprendere tutte le dichiarazioni di Schäuble in questo anno e mezzo, in cui diceva la Grecia resta nell'euro solo se fra i compiti, il debito greco deve essere ristrutturato, la Grecia deve mettersi a fare misure più stringenti, molto molto non è detto che la Grecia resti nell'euro. No, lo dico perché adesso mi sembra che abbia fatto un cambio di rotta improvviso. Oggi ha detto il Bundestag ai cittadini e alle cittadine tedesche che ci chiedono: sapete cosa fate? Rispondo: nessuno, lo dice Schäuble, nessuno approfitta dell'euro più di noi tedeschi. Nessuno approfitta dell'euro più di noi tedeschi. E che vuol dire? Che insomma i tedeschi, per voce del falco, del durissimo Schäuble, ammettono che l'euro faccia molto molto comodo soprattutto a loro, molto meno comodo alla Grecia in questo momento. Il default, un fallimento di Atene, potrebbe comportare un processo che potrebbe portare al crollo dell'euro. Beh, finalmente. Ah, perché voglio dire, poi magari riprendiamo le dichiarazioni dell'ultimo anno e mezzo di Angela Merkel alle 18, le leggo. Quando non è detto che la Grecia debba restare nell'euro, la Grecia resterà nell'euro solo a certe condizioni e via così. Adesso improvvisamente si scopre, si fa per dire, che se la Grecia esce dall'euro rischia di finire l'euro stesso. E scopre Schäuble che la Germania ha un grosso beneficio dall'euro, forse è il paese che più ne beneficia. Lui dice: nessuno approfitta dell'euro più di noi tedeschi. Complimenti almeno all'onestà intellettuale, finalmente. Mario Draghi invece conferma che la ripresa nell'area euro dovrebbe arrivare nella seconda metà del 2013, che la Banca Centrale Europea farà tutto il necessario per preservare l'euro, che il piano antispread da lui annunciato, ossia il fatto che la Banca Centrale Europea sia pronta a intervenire acquistando titoli di Stato dei paesi in difficoltà, sta avendo effetti significativi, e in effetti li sta avendo, che l'unione tra gli stati sovrani è molto fragile e che è finito il tempo delle favole. Ha detto Mario Draghi: alcuni paesi hanno vissuto in un mondo di favola, sottostimando gli squilibri come il deficit e il debito, che in alcuni paesi sono stati ritenuti sostenibili per anni per poi rivelarsi insostenibili. Penso si riferisca anche a noi. Il numero uno del Fondo Monetario, il direttore generale Christine Lagarde, ha detto: la situazione economica nell'area euro resta fragile. E poi ha detto: i paesi in surplus, quindi con un attivo di bilancio, sostengono i partner, e qui il riferimento era rivolto alla Germania ma anche ai paesi dell'euro del nord Europa. Insomma, mi sembra che ci sia un consenso ormai che si stia creando, con un po' di ritardo, sul fatto che A, la Grecia non può uscire dall'euro, B, l'euro conviene anche ai tedeschi, C, bisognerà fare in modo che la Grecia, per restare nell'euro, possa ripagare i suoi debiti. Adesso è brutto fare quelli che dicono l'avevamo detto, però uno si riprende le puntate di Focus Economia di un anno fa e anche di due anni fa, anche di aprile 2010, con gli ospiti che intervenivano a dire la stessa cosa: attenzione, il costo di un'espulsione della Grecia sarebbe incommensurabilmente più alto del costo per salvarla. Tra l'altro, la cosa che mi fa veramente arrabbiare è che se avessimo voluto salvare la Grecia a aprile del 2010 avremmo speso 20, 30, 40 miliardi di aiuti. Adesso ci sta costando centinaia di miliardi di taglio dei rimborsi del suo debito. No, perché i tedeschi sono sicuramente rigorosi, ma un po' duri sì, fino a Schäuble se ne accorge. Nel frattempo la disoccupazione è a record in tutta l'area euro, all'11,7% nel mese di ottobre. Praticamente c'è l'Austria e la Germania che non ce l'hanno. L'Austria ce l'ha il 4,3%, la Germania ha solo il 5,5% di disoccupati, molto bene anche l'Olanda 5,5%, invece la Francia 10,7%, l'Italia 11,1% di disoccupazione, la Spagna 26,2%, più alta anche della Grecia che ha il 25%. Se poi guardiamo la disoccupazione giovanile, cioè nell'età tra i 15 e i 24, il dato è veramente drammatico. Nell'area euro siamo al 24%, ma mentre in Germania e in Austria solo l'8% dei giovani non lavorano, in Olanda il 10%, in Francia sono il 25%, cioè un giovane su 4, in Italia il 36%, quindi più di un giovane su 3, in Grecia il 57%, quindi più di uno su due tra i 15 e i 24 anni non lavora. In Spagna il 56%, anche qui più di uno su due, su 100 giovani 56 non lavorano. Sono dati impressionanti. Della serie, se non facciamo delle politiche per far ripartire l'economia dell'area euro, soldi, debito buono, investimenti infrastrutturali, euro bond, project bond, qui continua a aumentare la disoccupazione. Il, non lo dico perché, visto che Schäuble adesso ha capito che la Grecia non può uscire dall'euro, magari fra un po' si convince anche che si può fare debito buono per migliorare la competitività dell'Europa e rilanciare un po' l'economia, no? Buttando dentro anche un po' di liquidità, come ha fatto l'America. Sì, hanno ragione alcuni degli ascoltatori che dicono: nel frattempo c'è chi ha guadagnato molto da questa speculazione iniziata con il non salvataggio della Grecia 2 anni fa, è verissimo. Beh, ci ha guadagnato anche la Germania, ecco, e rispondo a un altro ascoltatore che dice: perché la Germania ne approfitta di più? Perché la Germania in questo momento, da quando è partito l'attacco all'euro, è diventata il paese più affidabile e ha avuto i rendimenti delle sue obbligazioni negative, quindi la Germania può ottenere soldi in prestito ridandone meno di quanto ne ottenga. Questo vuol dire interesse negativo, cioè tu presti soldi a una persona, la Germania in questo caso, e lei dopo 5 anni te ne ridà meno, un po' di meno di quello che gli hai prestato, perché tanto viene considerato conveniente mettere i soldi nei Bund che uno preferisce anche perderci. Voi capite bene quale vantaggio è per un paese e per le sue imprese poter avere soldi pagando un interesse negativo, no? Ti chiedo 100 euro e te ne ridò 99,9, soprattutto se i tuoi concorrenti come Francia, ma soprattutto Italia, hanno tassi di interesse a 5, 6, 7%. Nell'Italia, dicevamo, i giovani al 36,5%, i lavoratori precari sono 2.900.000, i dipendenti a termine 2.400.000, e l'Istat fa sapere che ci sono 3.847.000 lavoratori part-time, di cui il 60% è fatto di part-time obbligato, involontario, cioè costretti a accettare il part-time perché non c'è un lavoro a tempo pieno. Vedo che alcuni dicono: no, i tedeschi non sono duri, hanno calcolato bene i vantaggi che ne avrebbero avuto e adesso che i vantaggi sono minori degli svantaggi cambiano idea. Può essere che ci sia anche del cinismo molto razionale nel dire: finché ci conviene continuiamo a essere l'unica salvezza dell'euro, poi quando anche noi veniamo sommersi o rischiamo di essere travolti dalla stagnazione e recessione dell'area euro, per cui nessuno consuma, le merci tedesche non si vendono e non si esportano, allora forse iniziamo a ragionare anche noi che siamo tutti sulla stessa barca. Può essere. E mentre il ministro Grilli sulla nostra disoccupazione dice il peggioramento è un negativo, è un peggioramento reale ma era atteso, il segretario generale della CGIL Susanna Camusso ha detto: attenzione, il 2013 sarà ancora più pesante. I dati sono al massimo storico, come ahimè era prevedibile, visto che in realtà sono dati che peggiorano di trimestre in trimestre e sono esattamente purtroppo coerenti alla recessione che è in atto nel nostro paese. La nostra preoccupazione è che dati di questo tipo ci portino diretti a un 2013 che avrà ancora dati peggiori sull'occupazione di quelli di quest'anno, in assenza di risorse sufficienti per gli ammortizzatori e per la protezione delle persone, e sono la conferma che il paese ha bisogno di fare sia politiche di redistribuzione del reddito, quindi di sostegno ai lavoratori dipendenti e alle pensioni, sia politiche industriali, senza le quali c'è solo il progressivo degrado del sistema produttivo terziario del nostro paese. Anche il ministro Grilli, dicevo, ha parlato, ha detto: il peggioramento è negativo ma ce lo attendevamo, se l'economia rallenta non si può pensare che l'occupazione migliori. avendo un'economia che ha rallentato, non si può pensare a una performance positiva dell'occupazione. Anche nei nostri numeri c'è un peggioramento della disoccupazione nel 2013. Certo, speriamo di sbagliare e che forse questo rallentamento sia inferiore, però il ciclo economico e il rallentamento del ciclo economico insomma indica quella la direzione, come noi già col DEF abbiamo insomma indicato. Ancora due notizie. Secondo la UIL il saldo dell'IMU sarà una stangata vera e propria, con punte per la seconda casa fino a 1200 euro. Uno studio della UIL, appunto, secondo il quale le tredicesime sono a rischio perché in gran parte saranno utilizzate per pagare la tassa sulla casa. Il gettito complessivo dovrebbe essere, secondo la UIL, di 23 miliardi di euro, quindi un paio di miliardi in più rispetto a quanto preventivato con il decreto Salva Italia. Bene, bene, male per chi la deve pagare, cioè quasi tutti noi. Bene per le casse dello Stato. Vorremmo che poi sapere cosa succederà di questi soldi. Lo dico perché, come oggi scopre il Sole 24 Ore in un'ampia inchiesta nella pagina di apertura dell'Economia, in Emilia sta succedendo una cosa paradossale. Lo dico perché poi ne andremo in Emilia il 14 di dicembre in diretta, anche Focus Economia, ammirandola, se ho ben capito, poi vedremo maggiori conferme, per stare vicino e capire che cosa è stato fatto o non è stato fatto a sei mesi dal terremoto. Però lo dico in maniera molto tranquilla, ma è inaccettabile quanto ha scoperto Sulle 24 Ore oggi, che voi ricorderete la moratoria fiscale, ossia le imprese della zona terremotata potevano sospendere i pagamenti fiscali. Ebbene, la burocrazia per dei vari moduli per far domanda di moratoria fiscale è talmente complicata che gli imprenditori preferiscono pagare in mora piuttosto che presentare le domande di finanziamento in banca e rateizzare gli arretrati di tasse e contributi. Oggi, tra l'altro, è l'ultimo giorno per presentare le pratiche. Pensate che si attendevano almeno 10.000 domande di moratoria fiscale, quindi rateizzazione degli arretrati di tasse e contributi, ne sono arrivate forse poco più di un migliaio, cioè un decimo. Nemmeno l'aiuto delle varie associazioni di categoria, CNA, la APAM, ha aumentato il numero di chi voleva accedere a questa agevolazione. La nostra Anna Marino ha chiesto a Carmen Calari, responsabile fiscale della CNA di Bologna, come è andata la presentazione e quali problemi si sono registrati, visto proprio l'insuccesso, l'abbandono e il fatto che gli imprenditori preferiscono pagare in mora piuttosto che mettersi a fare una trafila burocratica incredibile. L'andamento per il momento le posso dire che è stato piuttosto basso, perché poi i chiarimenti sono usciti troppo avanti, troppo tardi. E quindi più o meno il numero delle domande qual è stato? Come domande le dico, credo che alla fine saranno meno di 10, glielo dico proprio sinceramente. Ecco, secondo lei è stato difficile appunto poi mettersi a sfogliare tutte le regole, la burocrazia? Certo, sono state troppe e in troppi momenti diversi, tutti i giorni è uscito un provvedimento nuovo, quindi insomma io credo che non si possa continuare a lavorare in questo modo. Poi è stato un intervento urgente, insomma. Ecco, oggi è l'ultimo giorno. Sono state presentate le domande? Sì, tutte. Beh, le ripeto, erano poche. Per quanto riguarda appunto la gestione, per voi com'è stata? Onerosa, difficile? Questa è stata la difficoltà minore. Il problema era interpretare tutto il resto prima. Col fatto che siamo una struttura piuttosto complessa, abbiamo cercato di collaborare tutti insieme e la questione è stata risolta per questo, perché ritengo che una struttura più piccola avrebbe avuto veramente delle difficoltà. Noi abbiamo un collegamento all'intermediario per la presentazione delle domande, al nostro settore del credito per quello che riguarda la predisposizione, quindi a noi che facciamo tutta la parte di consulenza fiscale, quindi diciamo così è stato meno complicato per questo motivo, perché la struttura è una struttura complessa. La sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, tre che più, ladri stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues. Dobbiamo tornare sulla regione Sicilia e sulla regione Lazio, perché mentre in Emilia-Romagna tanto difficili sono i moduli e tanto complicata la nostra burocrazia che neanche i fondi della protezione civile riescono a essere sbloccati, presidente Mario Monti, la vogliamo fare una legge di guerra, visto che siamo in guerra, per sburocratizzare per un anno, per due anni, tutti gli adempimenti che le imprese devono fare? Poi faranno l'autocertificazione e pagherà chi ha dichiarato il falso, ma non si può continuare a pensare di recuperare il tempo e competere con gli altri quando ci si mette 4 anni a aprire un capannone invece che i 6 mesi in Spagna, e quando gli imprenditori preferiscono pagare la mora piuttosto che chiedere la moratoria perché è così lunga la procedura burocratica che uno passa la voglia. Ma evidentemente c'è una burocrazia che funziona, è la burocrazia delle regioni, perché continuano ad arrivare i regali preelettorali di Raffaele Lombardo, qui siamo in Sicilia, e dell'ex assessore all'agricoltura Francesco Aiello. 140 funzionari ed ex funzionari dell'ente di sviluppo agricolo hanno ricevuto una raffica di promozioni. Si è riaperta dopo 10 anni di guerra e ricorsi bocciati, infatti, la possibilità di rivendicare il riconoscimento del ruolo di dirigenti. La regione Sicilia ha già 2.400 dirigenti, 2.400 dirigenti, 18.000 dipendenti, più altri 21.000 precari, fate voi il conto. No? Ma ce ne potrebbero essere 140 in più. Ora, l'ente di sviluppo agricolo è lo stesso ente di cui parlammo mesi fa, ricordate i trattoristi? Assunte 500 persone con la qualifica di trattoristi, guidavano un trattore. Sapete quanti sono i trattori? 5. Un bel affollamento lì, no? A gara ogni mattina. Chi la guida? Io? No, tu? Io? No. 100 a trattore. Dicevo, adesso Raffaele Lombardo e l'ex assessore Aiello all'agricoltura hanno approvato una delibera, anzi il 12 ottobre, ma se ne è saputo, se ne è conosciuta solo ora, che approva appunto il regolamento di organizzazione dell'ente di sviluppo agricolo, 5 strutture intermedie, e consente di dare fiato ai funzionari. Adesso basterebbe un nuovo ricorso per rivendicare l'accesso alla dirigenza. 80 già lo faranno, altri 60 sono transitati in altre agenzie della regione, l'agenzia dei rifiuti, e quindi nuova speranza per questi 140 dirigenti. Faccio notare che la Cassazione in terzo grado aveva dato torto a chi aveva fatto ricorso, perché la loro richiesta non era ancorata a un regolamento. Adesso che c'è un regolamento potrebbero farlo. Se dovessero aver ragione, vorrebbe dire altri milioni di euro che la Regione Sicilia in bancarotta dovrebbe sborsare per questi 140 dirigenti in più. Ma la delibera premio consente anche di avviare l'iter per riconoscere i diritti di 375 impiegati a tempo pieno e di forse riconoscere la posizione dei 500 trattoristi. Potrebbero essere a tempo non determinato. Anche così si combatte la disoccupazione di cui parlavamo prima. È una battuta, E poi chiudiamo con la Polverini. Allora, voi ricorderete dell'assessore del PD, Esterino Montino, quello che giustificò i 4.500 euro spesi a Natale con la carta della regione in enoteca. Ha detto: abbiamo fatto un regalo ai bambini senza reddito, un atto di solidarietà in enoteca, cioè pure da denuncia questo, se compra alcolici per i minori. No, ma non basta questo, perché c'è una novità. L'ultimo regalo della Polverini, che ancora non ha la data delle elezioni, è lo stipendio di 1.500 euro al mese assicurato fino a giugno 2014 a Enrico Zappacosta, nominato presidente dell'IPAB Sacra Famiglia, che ha l'istituto che ha il compito di educare, istruire e addestrare professionalmente fanciulli poveri, e a tal fine dispone di un cospicuo patrimonio immobiliare. E lo ha denunciato Esterino Montino, cioè lì una bella guerra, e chiede: che titolo ha il signor Zappacosta per cotanto incarico? è un tecnico commerciale diplomato e senza laurea, proviene dall'UGL, fino a settembre ha lavorato come esterno, stipendio mensile di 2.000 euro. Vabbè, la denuncia ci sta tutta, credo che la faccia Esterino Montino, quello che ha speso 100.000 euro in convegni e cene e 740.000 euro in manifesti e 5.000 euro in enoteca, non resta che tirar fuori Quinto Potere. Vai. Voglio che vi alziate proprio adesso e andiate alla finestra e l'apriate e vi affacciate tutti ed urliate: sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. È un mondo difficile e vita intensa, felicità momenti. Vabbè, tanto la borsa ha chiuso, meno 0,50%, Popolare di Milano meno 3,20%, media 7 meno 2,30%, bene Fiat più 2,60%, ST Microelectronics più 2,1%. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, subito il collegamento con Alessandra Schepisi, poi... E per la vicenda Ilva, il decreto che il governo ha approvato circa un quarto d'ora fa, poi la vicenda SEA, lo stop alla quotazione della società che gestisce l'aeroporto di Milano, poi la borsa e poi il direttore generale di Unicredit Nicastro, nostro ospite. Alessandra Schepisi, buonasera. Sì, buonasera Sebastiano. Allora, il decreto salva ambiente c'è, si chiama Salva Ilva, ma dice Monti, io lo chiamerei Salva Ambiente, Salute e Lavoro. Che cosa prevede il decreto? Sì, dunque dopo questa riunione fiume durata oltre 6 ore, il decreto di fatto autorizza a proseguire la produzione nel rispetto delle norme ambientali. In sostanza l'obiettivo è quello di consentire da un lato la bonifica dell'impianto di Taranto, dall'altro garantire il ritorno al lavoro almeno parziale dei lavoratori, rientro, lo ricordiamo, bloccato a seguito dell'intervento della magistratura. Il Premier Monti ha parlato poco fa, cioè è in corso la conferenza stampa del governo, ha detto che la società Ilva avrà la gestione e la responsabilità della conduzione degli impianti, ha poi ribadito che l'Ilva è un asset strategico, che questo decreto è un cambio di passo importante verso la soluzione delle problematiche ambientali rispetto del diritto alla salute dei lavoratori e la tutela dell'occupazione. Non si può ammettere infatti che ci siano delle contrapposizioni drammatiche tra salute, lavoro, ambiente e lavoro. Il decreto in sostanza riassegna, appunto, come ho detto, alla gestione dell'azienda, al gruppo Riva, agli impianti siderurgici che erano appunto stati sequestrati dalla procura di Taranto a fine luglio, la condizione appunto sarebbe che Riva applichi interamente le disposizioni dettate dall'AIA, l'autorizzazione integrata ambientale, e quindi in caso di mancata applicazione questa autorizzazione ambientale verrebbe revocata nel caso in cui l'azienda non rispettasse gli impegni, con il rischio di chiusura. Ci sarebbe appunto un meccanismo sanzionatorio che si aggiunge poi al sistema di controllo già previsto dall'AIA. Poi viene istituita anche una persona terza, non un commissario ma un garante, per vigilare sull'attuazione del decreto legge sullo stato di avanzamento dei lavori di bonifica, un garante che dovrebbe lavorare con gli istituti ambientali come l'ISPRA, l'ARPA e le ASLE, sì. In un ruolo diciamo di sì, controllo. Mi sembra importante un passaggio in cui dice: il provvedimento di sequestro e confisca dell'autorità giudiziaria non impediscono all'azienda di procedere agli adempimenti ambientali e alla produzione e vendita secondo i termini dell'autorizzazione. C'è stato qualche riferimento fino adesso all'ipotesi di un braccio di ferro con la magistratura, quindi tra due poteri dello Stato? Sì, di fatto diciamo che questa riunione fiume è durata oltre 6 ore, è stato proprio questo il motivo, perché il provvedimento è stato più volte limato e ritoccato proprio per evitare di mettersi in contrasto con un difficile equilibrio appunto con la magistratura, evitare ricorsi, evitare appunto ricorsi dei magistrati tarantini alla Corte Costituzionale, che secondo alcuni giuristi potrebbero essere possibili. Secondo il governo invece si tratta dell'applicazione della legge, quindi non ci sarebbe appunto nessun contrasto, però evidentemente c'è stato, come dire, un lavoro così di limatura fino all'ultimo, proprio per questo motivo. E tra l'altro di poche ore fa, di oggi, la notizia che la Procura di Taranto ha respinto il dissequestro degli impianti dell'area a caldo del complesso siderurgico presentato appunto ha respinto l'istanza presentata la scorsa settimana alla Procura di Taranto dall'azienda, quindi un secondo no al dissequestro. Però evidentemente questo decreto poi bypasserà, diciamo, tutto questo. Certo. Ecco. Quindi l'Ilva tornerà a operare, appunto, produrre e vendere secondo i termini dell'autorizzazione. Vedremo se vi sarà qualche reazione della magistratura. Intanto il decreto c'è. Grazie Alessandra Schepisi per averci aggiornato. Appunto, le agenzie sono di questi minuti. Vi sarà appunto anche un meccanismo sanzionatorio aggiuntivo qualora non venga rispettato il piano di risanamento. 349-238-6666 per i vostri sms, per un decreto che sblocca l'attività dell'ILVA, salvo novità, un'iniziativa e un ricorso che ha bloccato la quotazione della SEA in borsa. Ne parliamo dopo il traffico e ricordiamo anche la pagina di Facebook. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dicevo della vicenda SEA, è saltata la quotazione della società che gestisce gli aeroporti di Linate e Malpensa, che vuol dire 644 milioni di euro di fatturato l'anno scorso, 54 milioni di euro di utile a 5.000 dipendenti, e ogni anno da Malpensa e Linate transitano circa 28 milioni di passeggeri. Gli azionisti sono il Comune di Milano, che ha il 54% ma non avrebbe dato nessuna azione nel collocamento, la Provincia di Milano, che ha il 14,5% che voleva vendere tutta la sua quota, e poi il fondo F2I, che ha il 29,7%, ha pagato 5,1 euro ad azione, e dando 1 miliardo e 300 milioni di valorizzazione sulla società, ed era contrario ha un collocamento a prezzi troppo bassi perché comporterebbe una perdita di 150 milioni. I prezzi dell'offerta oscillavano tra i 3,2 e i 4,3 euro ad azione, con un controvalore, quindi una raccolta da questo collocamento tra gli 800 milioni e il miliardo. Però sono sia 3,2 che 4,3 euro ad azione sono decisamente meno di quanto non pagò il fondo F2I, appunto 5,1 euro ad azione. E da lì iniziano i problemi della SEA e l'epilogo, perlomeno parziale, di oggi. Ciao Condina, Radio Cori, sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora, non sei qui per parlarci di borsa, ma di chi in borsa per ora non andrà, e mi riferisco alla SEA. Che cosa ha bloccato tutto? Beh, sicuramente, come dicevi tu, i contrasti tra i due principali soci, e in particolare sulle iniziative del fondo F2I, che era evidente proprio per i numeri che hai snocciolato prima tu, non gradiva questa quotazione, se si pensa che avrebbe costretto il fondo a iscrivere una minusvalenza superiore ai 100 milioni di euro. Se si pensa aspetta che la spiego questa, se tu compri un'azione a 5,1 euro e poi viene collocata in borsa, poniamo, a 4 euro, è chiaro che il valore che tu hai in libro deve calare, cioè tu non puoi più dire che quella roba lì vale 5 euro d'azione, quindi di fatto il tuo investimento viene sminuito perché tu l'hai pagata di più, ma il prezzo è un altro adesso. Da lì i 150 milioni di euro di perdita per il fondo. Chiudo. Sì, sì, diciamo, le regole di bilancio ti impongono di aggiornare la valutazione di un asset in base a quelle che sono le evoluzioni del mercato. In questo caso l'evoluzione del mercato è molto chiara, perché era un collocamento di borsa, e avrebbe costretto F2I e soprattutto i suoi principali azionisti a incassare una minusvalenza piuttosto corposa, se si pensa che il commitment, cioè i fondi che sono stati versati inizialmente a F2I per sostenere la sua attività, erano pari a 1 miliardo e 8. Di qui l'azione costante del fondo fondo, del fondo FDI, che ha lavorato ai fianchi su questa IPO con varie lettere inviate al comune e che tutto sommato affronta anche, secondo quanto diceva il sindaco Giuliano Pisapia, di un interesse mostrato da investitori istituzionali esteri, alla fine diciamo ha contribuito ad affossarla definitivamente. Ma lì è la Corte dei Conti che fra le indagini, cioè cos'è che ha bloccato tutto ufficialmente? Perché c'è un CDA, il CDA è iniziato? Il CDA inizia alle 6:30, no? Diciamo che i numeri sono quelli che hanno bloccato tutto ufficialmente, perché se si pensa che a ieri sera erano state raccolte meno del 40%, cioè era stato coperto meno del 40% del book degli ordini, risulta difficile pensare che si potesse concludere con successo il collocamento. Peraltro c'è anche chi sottolinea un aspetto che non è secondario: tra i principali azionisti del fondo di F2I ci sono Intesa San Paolo e Unicredito, le stesse banche che erano coloro che dovevano far sotto scrivere le azioni della SEA, quindi è un conflitto di interessi piuttosto importante, potenziale, che comunque può aver pesato sull'esito dell'intera operazione. Lo sviluppo adesso? Pisapia ha detto è abbastanza indifferente, perché gli sviluppi più importanti sono per la provincia, che avrebbe consegnato la propria quota di SEA in IPO, un 14,5%, che gli avrebbe fruttato una cifra sufficiente a non sforare il patto di stabilità. Adesso sicuramente gli scenari per la provincia sono è podestà quello che in questo momento resta con il cerino in mano, perché il comune comunque non avrebbe dato nessuna azione sua, quindi non avrebbe incassato nulla da questo collocamento della SEA, mentre la provincia, che voleva cedere tutto il suo pacchetto, cioè il 14,5%, avrebbe fatto cassa per non sforare il patto di stabilità e quindi non incorrere poi nelle sanzioni. Adesso una soluzione per la provincia sarebbe quella di diciamo di vendere in tempi stretti la quota di controllo in Serravalle. È andata deserta l'asta lunedì e indovinate chi c'è tra gli acquirenti di Serravalle? Ovviamente ancora una volta F2I. F2I. Grazie a Ciao Conni, a Radio Cor, il Sole 24 Ore. Restiamo a Radio Cor perché adesso commentiamo la borsa un pezzettino, con Andrea Fontana. Ottimismo per la Grecia, spread in calo, dichiarazioni in parte di Schäuble, le borse però portano a casa qualche realizzo: meno 0,33% Parigi, invariata Francoforte, meno 0,50% Milano. Banche popolari oggi, Andrea? Sì, banche popolari oggi in ordine sparso, è proseguito il rialzo della Popolare dell'Emilia Romagna, ieri la migliore con un più 9%, anche grazie al calo dei rendimenti di BTP e alcune raccomandazioni di case d'affari, ma tengono banco soprattutto le questioni legate alle trattative sugli esuberi, che colpiscono in maniera forte questi un po' tutti gli istituti di credito e in particolare le popolari. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Chiedo scusa a Andrea Fontana, interrotto brutalmente, ma abbiamo un clock automatico che scatta. Andrea, stavamo ragionando sulle banche in borsa, ma non solo. La Popolare di Milano meno 3,20% e ancora invece è l'unica popolare che perde così tanto oggi, Banco Popolare meno 0,61%, Monte dei Paschi, anche dopo l'aiuto richiesto, più 0,60%, Popolare Emilia Romagna più 1,70%, molto bene Fiat oggi più 2,65% e invece Telecom ha sofferto, nel senso che chiude con un calo dell'1,34%. Sì, dicevo, per quanto riguarda Fiat sicuramente è un titolo che si sta allontanando dai livelli minimi storici che aveva toccato intorno al 20 di novembre e che ha vissuto peraltro un mese di novembre molto faticoso con meno 23%, quindi la giornata positiva dell'auto, unico settore veramente positivo in Europa, ha guadagnato l'1%, l'indice europeo del settore ha permesso a Fiat questo rimbalzo che l'ha riportata verso 3,5 euro. Per Telecom l'attesa è sulla settimana prossima, una settimana importante, e il titolo oggi ne ha sofferto per le incertezze legate a cosa avverrà la prossima settimana. Ricordiamo, lunedì, se non slitterà nuovamente, arriveranno le offerte per Telecom Italia Media alla 7, e il 6 dicembre ci sarà un CDA importante con sul tavolo la questione aumenti capitale Saviris, con la questione cassa depositi e prestiti e spin-off della rete, con appunto la questione delle offerte di Telecom Italia Media. Il mercato teme anche qui uno stallo, teme un allungamento dei tempi, sì, dei tempi, e per questo ha fatto pagare il titolo. Ultimo titolo, Saipem, perché dopo un po' di settimane, un mese insomma, che il titolo non andava bene, oggi la borsa più 1% lo sta riscoprendo. Altri titoli come Ansaldo STS li commentiamo tutta la settimana, più 1%, Enel Green Power meno 2, Buzzi Unice meno 1,70, degli energetici abbiamo già detto, è nel meno 1,5, Saipem. Sì, essendo l'ultimo giorno del mese è chiaro che c'è un po' di risistemazione dei portafogli. Saipem aveva perso il 13% in questo mese, oggi più 1%, alcune case d'affari guardano con più ottimismo al 2013 e al 2014, le ultime indicazioni sembrano positive, e alla luce della performance debole degli ultimi tre mesi, in particolare dell'ultimo mese, c'è stata un po' di ricopertura, di ritorno di attenzione su questo titolo, che appunto ha superato i 34 euro per azione. Grazie Andrea Fontana, buon fine settimana a te e ai colleghi di Radio Colli sulle 24 ore. Dicevamo che oggi i mercati sono stati anche in qualche modo rassicurati dalle posizioni che ha preso il falco tedesco, il ministro delle finanze Wolfgang Schäuble, che ha detto, parlando al Bundestag, che poi ha approvato il pacchetto di aiuti alla Grecia, ha detto una frase che a noi ha lasciato così piacevolmente sorpresi, perché ha detto ai cittadini e alle cittadine tedesche che ci chiedono sapete cosa fate, rispondo nessuno approfitta dell'euro più di noi tedeschi. E poi e questa è una missione, l'euro in questo momento fa bene ai tedeschi in primo luogo, e gli effetti di un fallimento della Grecia potrebbero comportare un processo che potrebbe portare al crollo dell'euro. Siamo contenti, perché lo stesso Schäuble fino a qualche mese fa parlava con voce ben diversa. Eh sì, non solo in tutto 2011, ma anche il 9 maggio di quest'anno, Wolfgang Schäuble, testuale: se la Grecia decide di uscire dall'euro non possiamo costringerla, saranno loro a decidere se restare o no. E poi, due giorni dopo, l'11 maggio, sempre Schäuble: adesso l'area euro ha meccanismi di protezione, mentre Angela Merkel diceva nessun problema se la Grecia esce dall'euro, l'Unione Europea va avanti anche senza di voi. Poi hanno cambiato idea i tedeschi quando l'economia tedesca ha iniziato a frenare, tant'è che nel 9 settembre di quest'anno, tre mesi dopo, Angela Merkel dice la Grecia deve restare nell'euro, l'uscita è troppo rischiosa. E poi un mese fa, la Grecia, un mese e mezzo fa, ha fatto molto, vogliamo che resti nell'euro. Bene, bene, ci sono arrivati anche i tedeschi, che un'uscita della Grecia dall'euro è peggio che aiutare la Grecia stessa, con l'ammissione che l'euro sta avvantaggiando in primo luogo i tedeschi. Parliamo anche di questo, ma soprattutto di piccole e medie imprese italiane, perché oggi è uscito il rapporto annuale del gruppo Unicredit sulle piccole e medie imprese, dedicato in particolar modo alla necessità che queste imprese piccole e medie si digitalizzino. Ne parliamo, siamo in collegamento, lo ringraziamo, con il direttore generale di Unicredit, Roberto Nicastro. Buonasera. Buonasera, Subaisoni. Allora, nel rapporto che, come accennavo, voi avete presentato oggi, è la nona edizione del rapporto piccole imprese di Unicredit, vi siete concentrati molto sulla digitalizzazione, cioè quanto un'impresa è digitalizzata, informatizzata. Prima di arrivare a questo, però, vorrei capire qualcosa sulla fotografia che avete scattato. La fiducia delle imprese è ai minimi dal 2004, mi sembra che anche le previsioni sulla recessione non siano, diciamo, rose. Quello che emerge, devo dire onestamente, non è stata una sorpresa in relazione a quelle che sono poi i dati macroeconomici che stiamo vedendo in questi trimestri e attesi per la chiusura dell'anno effettivamente mostrano degli indicatori di fiducia che sono molto bassi. Guardando ai 12 mesi successivi emerge peraltro una limitata costruttività di pensiero, nel senso che c'è l'aspettativa comunque che i prossimi 12 mesi, pur non straordinari, possano essere un pochino meglio di quelli passati, quindi forse la sensazione, la consapevolezza che si sia un po' toccato il fondo e che possa partire una lenta ma progressiva ripresa. La fiducia però, voi lo rilevate, è ai minimi dal 2004. Esatto, è così. L'altro aspetto importante che emerge è che la fotografia di fiducia è peraltro abbastanza eterogenea per geografia, eterogenea per settore e è anche eterogenea ad esempio tra le imprese che appunto chiamiamo digitalizzate, quelle che invece sono ancora un po' lontane dall'adozione significativa di nuove tecnologie nei loro processi produttivi e distributivi. Cioè lei mi sta dicendo che la fiducia in realtà è mediamente ai minimi dal 2004, però poi se andiamo a vedere dentro scopriamo situazioni molto molto diverse tra di loro, molto eterogenee. Assolutamente, praticamente anche questo forse non è sorprendente, però insomma fa sempre effetto quando lo vedi nero su bianco. Il mondo che oggi esporta è un mondo che guarda al futuro, come dire, con la giusta preoccupazione, insomma, ma anche con una maggior fiducia. Il mondo concentrato sul mercato italiano, mercato domestico, magari con rapporto pubblica amministrazione, specialmente se non adotta o quando non adotta ad esempio nuove tecnologie, non è digitalizzato, no? Come diciamo nel rapporto, è forse il comparto che oggi manifesta le maggiori preoccupazioni. Allora, poi adesso arriviamo anche al ruolo che le banche, soprattutto quando sono grandi gruppi, possono avere nell'aiutare le nostre piccole e medie imprese nell'export, perché lì riceviamo numerose cahiers d'oléances, lamentele, insoddisfazione. Però vorrei capire una cosa, per voi quando prestate i soldi a un'impresa, il fatto che sia o meno digitalizzata cambia qualcosa nei vostri ratio, nei criteri che utilizzate per erogare credito? Direi di sì, nel senso che molto spesso l'impresa che è digitalizzata è anche un'impresa che quando interfaccia con noi, ad esempio nel comunicarci, raccontarci i propri piani, i propri business plan, le proiezioni, le previsioni, tende a essere molto concreta, molto precisa, maggiormente capace anche di verificare nel tempo deviazioni, scostamenti e quindi tende ad avere un DNA diverso, un DNA che alla fine viene certamente maggiormente premiato dal punto di vista di erogazione e selezione del credito. Allora, dottor Nicastro, adesso c'è il traffico, poi vorrei capire che cosa fate voi per le piccole imprese e medie imprese all'estero, glielo dico senza giri di parole, noi riceviamo molte critiche, lamentele, sulla assenza delle banche nei mercati distanti, là dove c'è ricchezza, dove si crea ricchezza, c'è domanda, dove potrebbero esportare le nostre imprese, e addirittura casi, non glieli sto neanche a citare, di imprese italiane che hanno dovuto andare in Brasile piuttosto che in altri paesi usando banche straniere, non certo le banche italiane. Ecco. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per l'ultima parte di Focus Economia, con noi il direttore generale del gruppo Unicredit Roberto Nicastro. Dicevo, se siamo tutti d'accordo, Nicastro, che l'export è l'unica cosa che sta aiutando le nostre imprese, l'export fuori dall'Europa, perché abbiamo visto con gli ultimi dati che frenando anche la Germania l'Europa è ferma anche come domande, quindi l'export che tira è solo quello extra Unione Europea, Brasile, Turchia, OPEC, paesi produttori di petrolio, Stati Uniti e quant'altro. Ecco, se siamo d'accordo su questo e se voi siete i primi a avere interesse che le imprese piccole e medie, vostre debitrici, sopravvivano, perché continuiamo a ricevere lamentele e critiche di chi dice, insomma, per andare all'estero, in Brasile, in Indonesia, in India, in Cina, dobbiamo usare le banche straniere, tedesche, francesi, le nostre lì hanno al massimo uffici di rappresentanza che servono a poco. Lo chiedo a lei perché voi con Intesa siete le due più grandi banche italiane, quindi avete anche un'ottica internazionale. Guardi, stiamo facendo sostanzialmente due cose. Da una parte stiamo proseguendo nel nostro progetto di rafforzamento e consolidamento delle nostre presenze all'estero. Oggi noi abbiamo presenze bancarie molto importanti, in diversi casi leader in 20 paesi fuori d'Italia, incluso alcuni dei principali mercati sbocco, tipo la Germania, tipo la Polonia, la Russia, la Turchia, e in tutti questi paesi noi abbiamo creato dei desk focalizzati e specializzati a supportare le nostre imprese che vanno lì. Oggi abbiamo qualcosa come 20.000 imprese, la maggior parte sono PMI, che supportiamo nello sforzo di internazionalizzazione verso questi paesi. E anche in Cina abbiamo investito molto esattamente in questa prospettiva. L'altra cosa che però è fondamentale fare è cercare anche di riuscire a scaricare a terra, diciamo, sul nostro territorio, questa capacità o questo diciamo, sforzo di supporto all'internazionalizzazione, e questo lo facciamo un po' in due modi. Da una parte attraverso la costruzione di un piccolo, diciamo, gruppo speciale di 200 specialisti estero sul territorio, che sono proprio dei punti di riferimento per le imprese. Dall'altra parte abbiamo anche avviato degli eventi in cui mettiamo in relazione buyers di diversi paesi esteri con nostre imprese. Abbiamo fatto 20 eventi di questo tipo nel passato anno, con i quali abbiamo appunto messo in contatto circa un centinaio di buyers, tipicamente dell'Est Europa, più recentemente anche dalla Corea, con qualcosa come 4.000 nostre imprese. Molto spesso da questi incontri nascono poi opportunità commerciali di business. È una sfida nuova per la banca questa, però noi crediamo che sia una sfida assolutamente cruciale, nel senso che siamo convinti che il percorso di recupero di crescita d'Italia abbia e trovi nell'export una condicio sine qua non. Ecco, però sulle reti ancora più lunghe, perché lei parlava, voi avete anche storicamente una presenza, anche dopo l'operazione con Impoverizebank, nell'est Europa, Germania, Polonia, Russia e va bene, anche la Turchia. C'è la sensazione, però glielo dico molto chiaramente, che sui mercati ancora più lontani, Brasile, India, Cina, Messico, Indonesia, i MITS, no? Messico, Indonesia, Turchia, ci sia, al di là della Turchia, ancora una presenza debole, non capillare. Ecco, lei non ritiene di dover rafforzare queste aree, perché insomma lì andrà poi il nostro export e lì resteranno in vita le nostre imprese, oppure la ritiene troppo dispersiva, cioè meglio concentrarsi su aree tra virgolette più vicine? Per poter essere presenti e dare un servizio di un certo tipo occorrono risorse imponenti. In ciascuno dei paesi che lei ha citato, no, in cui abbiamo presenza leader, noi oggi abbiamo di fatto banche che localmente hanno migliaia di persone che trattano con centinaia di migliaia di clienti locali, e questo evidentemente facilita moltissimo il rapporto e relazione che possiamo, il tipo di contribuzione che possiamo dare ai clienti italiani. Stiamo cercando a gran fatica, visto che è un mercato chiuso, di riuscire a costruire un servizio di questo tipo anche in Cina, dove oggi abbiamo 3 punti operativi. Abbiamo recentemente aperto anche Guangzhou, Canton, oltre a Pechino e Shanghai. Sugli altri mercati, per poter crescere ulteriormente, dove tipicamente noi operiamo attraverso gli uffici rappresentanti, attraverso rapporto con altre banche, molto francamente i volumi di interscambio tra Italia e Brasile o tra Italia e Indonesia sono ancora troppo piccoli per poter giustificare la creazione di strutture più significative. Però penso che sia molto rilevante osservare che nei paesi appunto del centro-est Europa, Germania, Austria e Cina, questi paesi in cui abbiamo una presenza molto forte contano per quasi il 50% dell'export italiano complessivo, quindi pensiamo sia un contributo molto significativo. Un'ultima domanda sul invece i titoli bancari in borsa e sugli utili delle banche. Voi, come anche Intesa e altre banche, avete presentato delle trimestrali in utile. Peccato che l'utile derivasse soprattutto dall'acquisto di obbligazioni. Voi avete avuto modo, come altre banche in Italia, di ottenere il denaro a prestito dalla Banca Centrale Europea a un tasso bassissimo, meno dell'1%, e avete poi comprato obbligazioni, titoli di Stato italiani con rendimenti molto superiori. Questo, per carità, va bene, però le chiedo da un lato che cosa si attende anche sul fronte degli spread, perché voi ogni volta che lo spread cala guadagnate in borsa, voi come gruppi bancari, dico non solo Unicredit, e dall'altro quando ritiene che gli utili bancari torneranno a essere tra virgolette più classici, tradizionali, cioè non solo sull'acquisto dei titoli di Stato avendo preso a prestito il denaro a un tasso bassissimo della BCE. Ma mi deve scusare, però qui lo devo contraddire, è un'opinione profondamente diversa. In realtà oggi, lo dicono le statistiche di Banca d'Italia ad esempio, il margine di interesse, quindi è la forbice tra tassi attivi, quello che le banche fanno pagare ai clienti, e tassi passivi, che quanto pagano i clienti per i depositi, sono i minimi storici da quando esistono le statistiche. Non è mai stato così basso, siamo all'1,7%. Questo è funzione del fatto che da una parte lato la raccolta è diventata molto molto più costosa, e questo è legato all'esplosione del rischio Paese Italia, che si riflesso nei costi raccolta, mentre lato finanziamenti il calo dell'Euribor ha generato sulla grossa parte di finanziamenti indicizzati un enorme crollo del costo. In realtà, quando noi guardiamo il costo del credito, è importante che differenziamo anche dal punto di vista di imprese il fatto che il costo del nuovo credito è aumentato molto, e questo è un problema di rischio paese, ma quasi sempre, in casi molto significativi, sui mutui assunti in passato, per esempio, il calo dell'Euribor ha abbassato moltissimo il costo del credito. Allora, in realtà, appunto, questo è l'indicatore principale di prezzo unitario per la banca, e oggi è assolutamente ai minimi storici. Per quanto attiene i quattrini BCE, qui posso parlare per un credito, ogni banca diciamo fa storia a sé. Per quello che ci riguarda, la quantità di titoli di Stato che abbiamo in portafoglio è sostanzialmente la stessa negli ultimi 18 mesi. Quindi non l'avete aumentata? No, è aumentata, è passata da 38 a 40 miliardi, quindi stiamo parlando diciamo di un ammontare molto... Ecco, e lei da quello che vede dal mercato, visto che insomma le banche ieri hanno avuto un grosso recupero, oggi la situazione è un po' più stazionaria, ma insomma c'è una stabilizzazione dello spread a quota 310, secondo lei? Oggi la Germania ha votato in una camera, il Bundestag, via libera agli aiuti alla Grecia, c'è stato un appello molto forte di Schäuble, che pure è un falco, ministro delle finanze, che ha detto attenzione, se esce la Grecia finisce l'euro, la Germania ha avuto grossi vantaggi dall'euro, un falco molto colomba oggi Schäuble. Ecco, secondo lei tutti questi segnali, visto che voi avete anche una grossa presenza in Germania, possono farci dire che c'è maggiore compattezza nell'arginare gli attacchi speculativi sull'euro, e quindi che lo spread ragionevolmente resterà, io spero che torni a 180-200, ma comunque resterà intorno ai 300 punti? Ma guardi, condividiamo assolutamente la sua speranza, e francamente condividiamo anche l'interpretazione ormai di parecchi segnali, direi dalle dichiarazioni di Draghi al 25 di luglio, lì che le cose sono cambiate in maniera significativa. Sembra che i mercati oggi attribuiscono fortunatamente probabilità bassissima a che possano esserci eventi catastrofici, no? Come potrebbe essere la rottura dell'euro. Avendo diciamo allontanato quel tipo di pericolo, c'è una maggior concentrazione di tutti per riuscire in qualche modo anche ad avere un'Europa più coesa, e in effetti tanti dei passaggi che consentono di farci uscire dal guado passano attraverso un rafforzamento dell'Europa. Da questo punto di vista, per esempio, è molto rilevante anche quello che è successo ieri dal punto di vista di approvazione da parte della Commissione ECON di Strasburgo della legge sull'unione bancaria. Lei teme il dopo Monti? O teme che i mercati lo temano? Ma mi faccia dire questo, il Paese deve continuare sulla linea che è stata inaugurata dal governo Monti. Crediamo che ci sia molta consapevolezza di questo nel Paese, non abbiamo altra scelta, non possiamo diciamo uscire da quella linea. Grazie al direttore generale del gruppo Unicredit, Roberto Nicastro. Grazie Tomasioni. E a me non resta che ringraziare anche Barbara Bianchi e Mauro Del Corno, come sempre, per l'assistenza in redazione, e augurare a voi un buon fine settimana. Ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.